Ora in onda Chi assalta, un programma di e con Marzi e Enzino, alla conduzione tecnica Simone. Hone. Sì. Marcia, ti vedo giovedì 7 di maggio. Ah, la prima puntata di maggio che facciamo, caro mio Marzi. Incredibile, ma è incredibile soprattutto perché stasera è una serata celebrativa. Ma autocelebrativa, 50. Siamo alla 50ª puntata di Piazza Alta. E se voi, nessuno di voi ci avrebbe creduto, nemmeno noi. Noi nemmeno saremmo riusciti a dirlo, forse. Veramente. Ma chi le avrebbe detto mai? Ma fra un po' iniziamo, Non andate via, chiamate gente, perché qua c'è roba che bolle in pentola. C'è ciccia. La sicurezza è un ventre tenero, ma è un demonio steso fra di noi. Ti manca e quindi puoi non crederlo, ma io non mi sentivo libero. Immarcescibili After Hours con Male di Miele. Pensa, caro mio Marzi, che era il 1997. Questa era la quarta traccia del loro album. E ora te lo dico, hai paura del buio? Io sì, ma penso di superarlo. Con il mio analista stiamo facendo un percorso. Quanti soldi stiamo spendendo da questi analisti che... Muoviamo il PIL, ma è quello che non si vede. È un PIL nascosto. È incarnito. Stasera sei pronto? Ma sono Possiamo nato iniziare? Pronto, certo. L'argomento di questa sera non esiste, infatti serata a braccio, tema libero. Chi così vuole intervenire lo può tranquillamente fare. Anche mentalmente, così, per certamente dire. Pensa, era il 21 novembre del 2013, caro il mio Marzi. Era un giovedì. Era un giovedì, come sempre, d'altronde. Ma di questo ne parleremo dopo. Intanto, Piazza Alta, Radio F. Sì. Quali sono le magiche frequenze su cui ci potete ascoltare? 101.2 in modulazione. E se avessi un computer, come potresti fare? Accenderlo innanzitutto e navigando su internet su www.radiof.it www.radiof.it. E se avessi uno smartphone? Allora sei veramente avantissimo. Potresti scaricare una app che si chiama? Che sarebbe valida sia per Apple che per Android. Bravo. Che si chiama? Radio Elfo. Non ti suggerisco perché. Ma per condire, per condividere non solo l'audio, bravo! Non solo quello che noi vi vogliamo dire dal dalle nostre interiora, ci potete anche vedere sul canale YouTube Piazza Alta TV. Piazza Alta TV che c'è tutto, c'è tutto un progetto, un progetto. Ci sono tutte le tutine di Marzi quando viene al, ecco, dobbiamo pagare gli oneri, poi il progetto va avanti. E non solo, però, per, tanto per concludere un po' i modi di ascoltarci, da domani ci sarà il podcast, quello che più ci tiene vicini ai nostri radioascoltatori, esatto, la nostra pagina Facebook, e ai nostri parenti, a chi ci controlla, pagina Facebook, e dove c'è di tutto, ma di degli un appuntamenti po'. Che cura il nostro Simone, che è, sì, anche la parte tecnica, e che salutiamo. Ciao Simone. Ciao. Bravo, senza poco entusiasmo, perché ecco, potrebbe essere contagioso, potremmo trovare di tutto, però caro il mio Marzi, addentriamoci, prepariamoci, sì. Vabbè, inutile. Io mi chiamano l'appretto con il manico, sono pronto. Questa sera, pensa che in occasione appunto della 50ª puntata, buon ascolto dalle F frequenze. Dopo. Ah, scusa. Dicevo, in occasione della 50ª puntata, siamo a noi, intanto ci saranno due grandissimi ospiti che per il momento non salutiamo. E staranno nell'ombra, anche se volete potete dare cenno della vostra presenza. L'ombra non c'è, l'ombra. Ma col sole, ma insomma. Ok. Bene, ecco, e insieme a loro che cosa faremo? Ci autocelebreremo. Attenzione, attenzione. C'è un tato su un cornicione. Piazza Alta, le storie di Foiano, da un'idea di tre sgarruppati, un'icona dei nostri tempi, uno spaccato della Foiano che è stata, che è e che sarà. Sportivi, musicisti, appassionati, donne e uomini come piovesse, testimonianze storiche di gente comunque strana. Dopo quelli della notte, dopo mezzanotte e dintorni, dopo il cappello sulle 23, dopo colpo grosso, il programma cult della Foiano da bere. Piazza Alta. Singolo istante del nostro viaggio, dance and praise per la forza di dire e reagire. Mi commuovo per tutto il supporto senza rese, dance and praise, la vostra forza è dare e suggerire. Ho corso a lungo per arrivare fin qui. Suona ancora una frase sull'ultimo giro di do. Vorrei infrangere l'ultima regola. Sono ad un bivio e tu, una scelta molto libera. Faccio autocritica, ti prego ascoltami. Ricordo ogni singolo istante nel nostro viaggio. A dance and praise per la forza di dire e reagire. Mi commuovo per tutto il supporto, senza rese, can't send praise, non c'è tempo per lasciarsi andare, sempre in trincea per essere imparziale, istantanee di un obiettivo, chi non dimentica ci concederà. Ancora una volta il premio più bello, e chi c'è e lascia, e sotto il palco una firma indelebile. Chi va e non sa, perde il giro. Let's dance together right now. No, no, no. Speed up, speed up, speed up, wow, wow, wow. Dance and praise. a tirapolvere. Non sopporto chi non vuol capire che si può cambiare senza finire. Ricordo ogni singolo istante del nostro viaggio. Dance and praise per la forza di dire e reagire. Mi commuovo per tutto il supporto senza rese. Dance and praise, la vostra forza è dare e suggerire. Inconfondibile ritmo de, anzi sound, come direbbero quelli bravi di Africa Unite, con Dance and Praises. Yeah. Dal nuovissimo album Il Punto di Partenza, che è uscito solo due settimane fa e che è rimasto in download gratuito dal loro sito ufficiale, capito? E ne ha approfittato subito il nostro Simone. Buon Simone. E non si smettisce mai. Dove c'è una promozione, Simone è il killer lì. Del buono lui. Dove c'è una promozione io invece non c'ero mai a scuola, però, però questo è un altro discorso. Di che affronteremo? È riuscito prima o dopo? Marzi. Sì, ma... il 21 novembre del 2013, che dicevamo, facevi? Ci siamo ritrovati qualche settimana prima, io e te Simone abbiamo, anzi io e Simone va, e abbiamo detto: ma perché non facciamo un programma in radio? Così. E il generoso Paolo, il direttore di questa radio, che salutiamo, che sta facendo anche le riprese, ha detto sì, perché no, ho il coraggio. E noi abbiamo detto: sei sicuro? Sì. E allora siamo tutti d'accordo. E il 21 novembre 2013 ci siamo ritrovati. Io quando entro in scena non mi ricordo. E te sei venuto il 21, sei venuto in radio direttamente. Ecco, e io bene, e abbiamo iniziato a e ho dato la svolta praticamente. Allora, che cosa volevamo dirvi con questo? Niente. Però, detto però bene, era il promo per, diciamo, perché stasera vogliamo fare un po' un excursus di quello che abbiamo fatto, di quello che non abbiamo fatto. Perché in questi chi è venuto con noi, che ha un po' costruito questa piccola storia di Piazza Alta, e vediamo se ci sono le basi anche per un futuro luminoso e radioso. Per altre 500. Pensa che oggi Beautiful hanno trasmesso la 7000esima puntata. Quindi diciamo che siamo un po' indietro noi, però potremo arrivarci, insomma. A te pensa che io le prime le ho guardate, le prime 300 le ho guardate tutte. E si vede. Però con chi facciamo questo, Marzi? Con chi facciamo? Con due personaggi che ci accompagnerà in questa carriera. La loro l'immagine di uno di questi già naviga su web. Però ancora teniamo un po' la loro identità nascosta. Diciamo soltanto che sono due esponenti del paese che sono stati con noi, che sono stati veramente protagonisti di, diciamo, di alcune nostre puntate, ma soprattutto della vita di Foiano e di Piazza Alta, perché in Piazza Alta e nei suoi dintorni ci sono nati, ci sono vissuti e ci sono cresciuti. Sì. A bistecche. A bistecche. Allora, facciamo, visto che non vuoi dire il nome di queste patate, carciofi. Insalate, olive, caciotte. No, anche perché sono già famosi di per sé. Sì, ciccio e prosciutti. Tra l'altro abbiamo già pubblicato in realtà la foto sulla nostra pagina Facebook Piazza Alta, per cui chi ci segue in doppia modalità già ha capito di chi parliamo. Con la doppia modalità stiamoci attenti. Per l'amor del cielo. Sì. Salutiamo intanto però il pubblico femminile, sala, che è numeroso, graditissimo. Ci ascolta e ci quindi segue. Saluta Elisa e Valeria, che salutiamo. Ciao. Sono due gnocche. Però ora non parla. Gnocchi e per magnare. Non è un programma culinario. No, ma sarà un programma culinario. Questa è una gradita novità della seconda edizione. Beh, certo. Assolutamente. Ma li vuoi presentare oppure ancora no? Ma fai, va bene. Vai, no, fallo vai, te. Vai. No, dai, fallo te. Allora, abbiamo il piacere, l'onore cazzotti, di avere con noi, se sveliamo questo mistero, la donna gatto al secolo. Graziano Bartoli, ho detto anche Gramazio. Un applauso. Per quello che farà, per quello che farà, rimanete con noi. È un professionista, un pezzo da 90 che può, no, diciamo, basta di cui così, può insomma vantarsi Foiano. Massimo Biribicchi, un altro applauso. Un altro applauso. Bravo. E noi ci pregiamo di essere amici di tutti e due, e sì, loro mai grado loro, ma infatti non è che sono questi tanti. Sono amicizie, errori di gioventù, sì, a cui che uno poi paga, che poi paga la famosa gioventù, sì, bruciata. Ecco. Sarà durissima. Allora, sì, ti ricordi, Enzo, gli argomenti delle prime, gli incerti argomenti delle, guarda, prime puntate? Io, gli incerti argomenti, ma perché sì, eravamo ai primi passi, quindi un po' così, però ci mettevamo tanto tanto impegno, quello che abbiamo perso col tempo. No, in realtà le prime puntate erano puntate che si differenziavano da poi da tutte le altre, soprattutto perché non avevamo ospiti in studio. Non so se e questo ricordi. Era importante, perché noi abbiamo iniziato proprio con una ricerca storica dei fatti, dei luoghi di Foiano. Esatto, invece adesso vengono gli ospiti e noi non facciamo più niente. Perché loro. La storia vissuta, no, effettivamente. E abbiamo iniziato. Più goduta. Stasera anche serata poetica. Abbiamo mi baciate. Ma io vedo già che sono già passati 17 minuti, sì, ma possibile? Ancora non abbiamo detto niente. Vediamo se riusciamo a arrivare a mezzanotte. In fondo. Allora, nella prima puntata abbiamo parlato proprio della storia di Foiano, cioè come è nato quel primo nucleo abitativo da Forum Iani, oppure altri nomi che ora non ricordo. Vabbè, ora non rimbanghiamo quello che hanno fatto i nostri progenitori. Esatto. Poi nella seconda puntata abbiamo fatto un salto in avanti, abbiamo parlato di Furio del Furia, che comunque aveva lasciato delle testimonianze, che è ritornato in tante puntate, perché diciamo è stata evidentemente una presenza importante in paese. Poi siamo tornati indietro e abbiamo iniziato a parlare delle piazze di Foiano. Abbiamo fatto un po' la toponomastica del paese. E questo è altrettanto importante, perché le piazze sono sempre state vitali grazie agli abitanti, a coloro che ci stavano. Ai piazzini. Ai piazzaltini e piazze limitrove. Infatti, poi non hai chiamato, insomma, piazzini, no. Vabbè, piazzaltini. E ci sono gli ospiti di stasera. Centrini ci sono. Qui devo intervenire perché c'è già una forte discriminazione. Perché? Piazzini, che sono piazzini? No, io chiedo scusa, sì, ma era mi è scappato. Vabbè. Poi dopo abbiamo parlato delle cinte murarie, delle porte, e poi di come vivevamo abbiamo il Natale a Foiano, contestualizzato, diciamo. La bonifica della Val di Chiana, il Teatro Garibaldi, il Medioevo, il Festival della Canzonetta, e da lì abbiamo iniziato poi a invitare un excursus, un trionfo di personaggi. Ma perché sono comunque qua loro? Ve lo diciamo dopo, anzi ve lo facciamo capire dopo, perché abbiamo già parlato anche troppo, quindi ma Simone, sì, sono sicuro che metterà un brano che piace sicuramente a Marcello. Ma non credo proprio. Dal 1976. Buon ascolto. Dalle F frequenze. Yeah. direttamente da Baltimora, dei New Mystical Troubadours con How Our Prayer. Devo aver fatto sono un corso, ma non me ne so accorto. Dal loro nuovo album Another Soul Kisses. Bene. Uscito il 2 maggio, è scaricabile anche dalla loro pagina Bandcamp Official. Guarda, rimango veramente stupito di quante informazioni si possono dare su un brano musicale senza sapere niente come me. Quante informazioni. Dunque, ci siamo lasciati prima di questa interruzione musicale. L'interruzione musicale è bellissima. Di lavoro, perché stavamo lavori. Già avendo un po' di pepe sull'argomento di cui trattavamo, sulle piazze di Foiano, su come si viveva, e subito Massimo, nostro ospite, ha preso la palla al balzo perché voleva precisare qualche cosa. Va bene, ok. E questo è il massimo delle espressioni. Sì, perché a maggio del 2014 abbiamo fatto una puntata che coinvolgeva i piazzaltini contro i collegiatini. Sei partito subito con un falso storico dicendo che la piazza più importante è Piazza Alta, quando tutti sanno che la piazza principale è la collegiata. Attenzione, qui è arrivato. Scusami, Babbo Natale. Mi sembrava che l'avessimo chiarito bene, insomma, l'ultima volta. Sì, sento il lupo, e c'era in piazza tra il detto il lupo. Manaro. È quello che fa il nonno alla nonna, però. No, c'era un lupo. Io, scusate, cercherei di stare un po' sul concreto. Certo. Effettivamente, ora noi diciamo, caro Massimo, partiamo da Piazza Alta per questa nostra trasmissione, quindi un minimo di sentimento ce lo mettiamo. Però chiaramente, se tu hai una versione diversa sulla priorità, su quello che è effettivamente la realtà storica, ti diamo la parola, ti diamo atto di quello che è il tuo pensiero, però. Diciamo, lasciamo a ognuno la sua opinione. Ma pensa te, ma mi sembra Biagi nel 1900. E non ho detto niente. No, allora diciamo così. Se... No, no, di Massimo. No, dicevo che mi hai quasi convinto. però cioè, perché il niente è importante. È importante di come lo dici, non quello. Sì, è la convinzione. Esatto. La convinzione. Però io direi questo, visto che abbiamo. Tra l'altro, pare chiarito che siano questo... anche degli studi in questo senso. Visto che abbiamo... Dal Fossombroni in poi, pare che ci sia proprio un filone. Ma volevo solo chiudere dicendo. Noi siamo della stessa generazione, lo sai, dove si giocavano di fenomeni, chiaramente. Molto fenomeni, dove si giocavano le partite di pallone, in Piazza Alta o in collegiata. Rispondi a questo e avrei detto tutto. Insomma. Io le giocavo al Fosso, ma diciamo sotto qui apriamo altre cose. No, al Oltre Fosso, davanti alla chiesa, da sotto il comune, sotto di tutte le parti. Comunque, in ogni caso, questo pallone, questo calcio un po' diciamo artigianale, era comunque un momento di aggregazione anche all'epoca, come oggi. Assolutamente. Allora, visto che abbiamo chiarito benissimo questo aspetto, io direi di passare, però, concedetemelo, a una prima dimostrazione delle arti. Di come si può diventare, di come ci si può trasformare con la tecnologia. Sì, perché Graziano Bartoli in arte è Gramazio ed ha calcato fior di teatri, fior di assi di palcoscenico, palcoscenici. Fiori. È vero, fiori, fiori proprio, fiori così. Facendo delle aiutami Marzi, trasformando la sua anima interiore in qualcosa di diverso. Qualcosa legato un po' alla tecnologia, alle volte comunque al materiale che fin da piccini ci stava con il nostro, ma sicuramente Massimo, chiaro, perché davanti alla chiesa al Murellini si giocava con modellini. Ecco, questo è un filone, bravo, no, ma ha ragione, perché questo è un filone sicuramente che possiamo anche sviluppare, perché fin da piccini, per arrivare a questo punto da grandi, devi partire fin da piccino ad avere delle devianze, delle problematiche. Se vogliamo, ma infatti possiamo... tutti i rumori volevano assomigliare a me. Scambi le modellini, scambi di quello e scambi di quell'altro. Perfetto. Ecco, in questo senso, Graziano Bartoli, detto Gramazio, iniziamo con un grande classico, con Robocop. Poi fai te tutte le deviazioni che devi fare. Sì, noi ora ci mettiamo in silenzio, abbassiamo anche un e po' poi, la base. Ecco, io vorrei che seguisse con attenzione anche questa performance, Massimo, perché poi voglio sapere un giudizio critico. Stiamo anche riprendendo, poi faccio una foto. Ma prego, te ora quando sei pronto? Noi siamo qui, eh? Robocop. Robocop. Vai. La gente entra in macchina. Mani in alto. Vivo o morto, tu verrai con me. Ok, Ciao. Questo è il primo. Allora, questa nella versione americana ha un altro. Sì, affitto la benzina. Devo dire che è sempre una grande emozione. Vedere l'occhio nel delfino è veramente eccezionale. Riflesso. Ecco, Massimo, te che eri chiaramente presente, avresti mai pensato di trovare dell'arte, diciamo, l'arte allo stato puro? Devo dire che siccome noi ci conosciamo fin da bambini e questo giustifica molte cose, con la maturità ormai acquisita si colgono delle sfumature in queste interpretazioni che delle volte te le rendono diverse, capisci? Quindi sempre. Bene, io direi che grazie Graziano e grazie all'esimio critico che va a commentare. Grazie. Siamo solo a metà della trasmissione, il meglio ha da venire. E ora un brano che piace anche a Marcello, giuro. Ma non credo. Comunque, buon ascolto. Grazie. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. Tra un mesetto lo ritroveremo negli stadi di tutta Italia e io ci sarò. Perché l'hai perso? Sì, questo era Jovanotti, ma che lo dico a fare? Devo presentare all'Ombelico del Mondo? Cioè, vabbè, no. Si sa, è uno dei maggiori successi del nostro conterraneo, tra l'altro, che chissà quante volte abbiamo trovato mentre andavamo in bicicletta. Pare non fossimo mai andati in bicicletta. Da Cortona lui guardi verso Foiano con ansia e con bramosia di vedere Piazzale. In realtà lui... Niente, no. Va bene, andiamo avanti. Vorrei fare dei saluti, se mi permetti. Ti permetto tutto quello che vuoi, caro mio Marzi. Dei gentilissimi ascoltatori che gentilissimi, vado ad elencare. È il 73, gentilissimi. È vero. Gentilissimi. Volevo salutare Tamara, Patrizia, Rachele, Graziella, Ilaria, Letizia e Simone. Ma questo è Simone Grazi. Grazie Simone. Grazie Simone. E beh, non dimentichiamoci anche di Augusto che ci segue, non so come, perché... ha dei problemi. Ma. Di che cosa stiamo parlando? È la Stavamo nostra 50esima puntata. Discorrendo. Per la precisione, la 22esima della seconda serie, perché ne abbiamo fatte 28 nella prima e 22 nella seconda. Per ora. Per esempio, dico un po' di argomenti a caso che abbiamo affrontato. Il carnevale l'abbiamo affrontato più volte, abbiamo parlato con il presidente del comitato, con i presidenti dei cantieri, delle mascherate dei cantieri abbiamo parlato. Quindi abbiamo parlato anche dei testamenti con Brunero Falchi, mi ricordo. Poi abbiamo ancora parlato anche con associazioni tipo Artificio, gruppi sportivi come Goal Boys o la Pallavolo Foiano o il Foiano del 78 che arrivò in Serie D. Ma poi abbiamo avuto dei grandi sportivi, non sì. Ultimo. Aspetta, scusa, se me lo bruci ora, mi lasci così. Ma per esempio abbiamo parlato dei riti, ma del gruppo podistico, certo. Dei riti della Settimana Santa e del Ciambellino, che è ancora più riti della Settimana Santa, in cui Massimo Piripicchi ha fatto una delle uscite, degli interventi più apprezzati, penso, degli ultimi 10 anni. Vogliamo ricordarlo? Te lo ricordi te? Sì, me lo ricordo, perché Massimo non so di che cosa stai parlando. Allora te lo ricordo io, perché ha svelato un piccolo segreto, perché nelle retrovie della processione del Venerdì Santo, non è che alle volte può essere funzionale anche per le processioni ai tempi dei social network, ecco, questo sì. Per broccolare. Io ancora non ho capito, Massimo, aiutami perché certo, perché all'epoca non eravamo aiutati dalla tecnologia, quindi anche la processione era funzionale. È un momento di incontro, di incontro. Te mi portasti all'argomento perché chiedevi come venivano, la verità, come avvenivano le disposizioni. Le disposizioni avvenivano in base agli interessi non troppo religiosi, insomma, un pochino più profani, capisci? Cioè, quindi noi stiamo parlando. Vabbè, ok, sì. E funzionava? Sì, dipende. Non sul momento. Non sul momento, però. Era un appuntamento. Però, insomma, era un tassello importante del mosaico. Cioè, mi fai arrivare a un'immagine di Non ci resta che piangere. Bravo. Con Troisi sulla panca che guarda le donne e fa sì, ho capito. Sì, ma è uguale. Meraviglioso. E non era il 1005, voglio dire. Sì, no, ma non eravamo tanto lontani, insomma. Vedi. Te ci hai mai partecipato, Graziano? No, in queste situazioni no. Qui. No, te eri più per l'arte. Sì. Io... Poi il brocconaggio, quando andava a ruminare, che cosa per me era già stato un augio, era di già era già avanti. Scusami, questo slang giovanile ancora dopo non tutti ci possono sentire. Certo. Ma perché, scusa, taonaggio che cosa significa? In che era consiste? A circondare, avvicinare, la persona, la preda. Una mozza tenaglia. Sì, piano piano puoi stringere. Pare che Rommel avesse una tecnica di questo tipo. Sì, Atenaglia. Atenaglia. Ora io farei una domanda a Graziano, così e chiudiamo la trasmissione. Qual è stata la puntata che ti è piaciuta di più? Invento. Oh, fantastica, beh. Te la ricordi quella lì del forse quella dove c'era lui, no? Beh, sì, io ho visto qualcun'altra, però devo dire tipo che la mia, quella piazzettini con i giattini, devo ritornare lì, devo martellare. Graziano, comunque questo discorso del campanile nel nostro caso non ha senso, perché il campanile nostro è uno solo e quindi certo. sia Piazza Altini che Collegiatini, no, beh, sono tutti, sì, all'ombra del solito campanile. Certo, è vero. Quindi questa è più una disquisizione. Sì, no? Dalla cazzo, sì, sì, perché mi fai cenno negativo? Sì, perché sono proprio d'accordo. Sempre quella bocca. Evidentemente non è ti d'accordo. Posso contraddire perché sai. No, no, che, fai insomma, conto. Sono ospite. Perché vuoi dire che te eri sotto un altro campanile, forse quello di San Domenico? No, era quello della chiesa, mi sa, della chiesa, quello della collegiata. Quello della collegiata, tutto al più. Ma c'era questa porta che ci divideva, insomma, in cima. La porta dei ghiacci. Dei ghiacci. Dei ghiacci. Di cui abbiamo parlato divideva, appunto in quelle altre trasmissioni. Ma io direi di fare, per la gioia di Marcello, di andare con un altro brano. Che gli piace ancora. Gli piace ancora, no, questo gli piace, sono sicuro. Ecco, E poi dopo Gramazio ci delizierà ancora, Va bene. E per far filava e filava la lana e l'amianto nel vestito del santo che andava sul rogo. Questo ve lo devo dire chi era, vi voglio offendere. Mi sembra superfluo. Musicalmente, mi sembra il superfluo. Grandissimo Rino Gaetano, che nonostante ci abbia lasciato troppo presto, ci ha lasciato un sacco di cose, tra cui Berta Filava, tratta da Mio fratello e figlio unico. E nelle note di che mi ha messo Simone sulla canzone ha detto: che te lo dica a fa? Ma ha ragione, nel senso, qui ci possiamo la cioccolata stare... ai cosiddetti, vero? Maiali. Ecco, bravo. Sì, te pensavi di lasciarla così? Bravissimo. Ma continuiamo in questa serata così autocelebrativa, ricordando ancora qualche altra puntata, caro il mio Marzi, con questo arancio. Siamo tutti e due arancioni stasera, tra l'altro. Ma veramente? Ma che è la risbanda, è la risbanda. E poi sarebbe la risbanda. Ma sentiamo anche Massimo. Io Massimo, senti, la lenta. Qual è una delle puntate che ti è rimasta più impressa? Indimenticabile. Per me dover scegliere fra le puntate è come scegliere fra un fra dei figli di quell'altri, però insomma sempre. Guarda, è uno dei più bei complimenti che ci potevi assolutamente fare. Assolutamente, no. Io ti ricordo, togliendo le puntate in cui hai partecipato, certo, cui ho partecipato, a me è rimasta, mi ha colpito quella del ciambellino. L'argomento era pregnante, quello si magna mancava un po' il Vinsanto, lo sai perché, perché la nostra è una trasmissione nazionale popolare, cerchiamo di incontrare i gusti di chi ci ascolta, di tutti, e te evidentemente. Vorrei salutare Sandrino, ciao Sandro. Bravo. E tra l'altro abbiamo fatto anche altre puntate, non dico proprio culinarie, però che in qualche modo c'entravano. Per esempio abbiamo fatto una puntata su la Foiano da bere, che ovviamente non era da bere, ma che parlava un po' degli anni Ottanta. Certo. Abbiamo fatto una puntata sempre nel primo anno sui Lumacons, poi l'abbiamo ripetuta anche nella seconda serie, quella che stiamo facendo quest'anno, foianesi che vanno e che vengono, con un finlandese, l'amico di cui non ricordo più il nome, ahimè, Lassi, torna a casa Lassi, famosissimo, e con il quale abbiamo, ci siamo anche cimentati con Tommaso Pasquini in My Way, uno dei momenti più alti. Vi invito di andare, pare che alla Royal Albert Hall interrompano ogni concerto per fare un piccolo break di questa esibizione. Potete vedere tutte queste cose e anche questo, e anche di più, anche questo My Way su Piazzalta TV, che ha tutto quest'oro. Ma indimenticabile anche, per esempio, la puntata con il club Ferrari di Foiano. A proposito, Enzo di Ferrari è il mio nome. Sì, è stata una delle puntate forse più belle. Ma e di cui ho avuto anche riscontro in paesi lontani, non dall'altro capo. Ma questo discorso della Ferrari a noi ci coinvolge non solo per quella puntata lì. Non solo perché siamo tifosi da Ferrari, ma anche perché il nostro Gramazio, che stasera è qui con noi, che tanta emozione ci dà, pare che sia uno dei cultori del suono del motore della Ferrari, che gli riesca proprio meglio nella sua arte di umorista. Quello del 2015 ancora è da ruotare il motore, insomma, dai. Quindi non te la senti di fare quella del 2015? No, quello ancora a tempo è il tempo, diciamo. Giusto. E quale modello ci fai? Di quello del 2014. Ah, che quindi, mi sembra, insomma, comunque abbastanza. 2014? Tanta roba, è cambiato tutto la parte rumoristica, diciamo. Io, se vuoi spiegarci anche qualcosa di più, come preferisci. No, il fattore è più chiuso, è più cupo il rumore, capito? Esatto. Invece prima era più aperto. Aperto le trombe, tromboncini, ecco, tutto. Se ci vuoi fare anche un esempio. Un esempio è questo. Aspetta, qui era. Aspetta, no, siete pronti? L'esempio era questo, perché Prima un esempio e poi ci fai quella. Sì, dopo per... sì. Okay. Questo è l'esempio che aspetta, come che chiudiamo come le accendevi, finestre. Come accendevi? Boom! Boom! Boom! Questo, ok, motorino ha inserito praticamente. Aspetta, la chiave. Voglio, no? Sì, guarda, grazie. Una cosa, start. Aspetta, fallo da più lontano dal microfono. No, te, credimi. Sì, perché fai, diciamo che non sei tutto sotto il traguardo, la partenza, ma sei un seconda o terza fila. Fallo da qui. Ecco. Ora invece lo faccio per gli amici a casa, per i microfoni, per l'impianto. Per il direttore. Mettete anche le cuffie, così sentite meglio. Vai, siamo pronti. Allora, invece, con la gara è una warm up. Più che gara, è la prova. È la prova. Per vedere se parte. Come ci siamo classificati? No, era una prova libera, quindi tempo sul giro. Tempo sul giro, diciamo, secondi, dai. Anche modesto. Doveva dire primo. Chi avrebbe potuto dirti che sentiamo il nostro esperto. Giusto. Qui, Massimo. Sì, ecco, secondo Massimo, te la guida di questo ferrarista in questo momento è abbastanza fluida? Fluida, perfezionabile, diciamo, però cioè, siamo sulla strada giusta. È più indicata. Si sente soprattutto quando entra il turbo, c'è un veramente il turbo c'è ora il turbo, era aspirati prima. Ecco perché non si sente. E allora bravo, perché non ti è sfuggito niente. Bene. Allora, noi abbiamo degli ospiti che sono avanti, ma qualcuno è proprio arrivato anche troppo in là. Ci siamo, un altro brano, ci riprendiamo e poi il grande finale, eh. fosse quello che ero io. Povero Ed, se ne stai, non ci vento di pular. Visto mai che mi sospiri di più. Che mi sospiri di più. Stai, se ne stai, come lei, meno donna, pop gay. Chi lo sa, tanto sei, la mia stella, stella. Stai con papà, ma di es, dolce piede sul mio gas. Quando vo, quando sto, per sospirarti di più. Che mi dà brividi, tipo quando il sole stai. E la vuoi, e ti vuoi, e non dormiresti mai. Stella stai, stella tu, per sospirarti di più. Sospirarti di più. Stai, stai, stai, stai. Guardando il cielo del sud, chi viene fuori sei tu. Sei tu. Non ando un figlio se può, dai tuoi occhi se no. Se no. A questa porta voglio tenerti tra le mie braccia, prima ti torno a lei, lo sai. Quantesima puntata di Piazza Alta stasera, può veramente succedere di tutto. Cioè, sono volute 50 puntate, due anni per far felice Enzo. La dedica era per la prima volta in assoluto su queste frequenze durante questo periodo. Umberto Tozzi, Stella Stai, era il 1980 e io già la ballavo. È incredibile, ce ne vorranno altre 50 per trovare un pezzo che piaccia anche a me. Quindi state con noi perché la ruota gira. No, io ringrazio, guarda, sono commosso. Chi ha visto insomma le mie reazioni, commosso ondoso in aumento, abbiamo visto. Non me l'aspettavo, tra l'altro mi aveva messo un altro brano giustamente per farmi la sorpresa Simone in scaletta. Io Umberto Tozzi, ma a questo punto scusa Enzo, non voglio lasciar cadere il pathos e l'emozione che si è creata con questa canzone, che tra l'altro volevo segnalare a Simone, che è un attento anche alla statistica, abbiamo avuto un picco di ascolto. Sì. Ci sono dei mi piace che non trovano posto sui server di Facebook, quindi che sia di buon auspicio. Titolo a Wall Street. E a questo punto volevo chiedere, perché comunque ho visto negli occhi vacui dei nostri ospiti ritornare indietro di 20-30 anni. Massimo, questa canzone ha fatto parte anche della tua infanzia, della tua gioventù, che cosa ti ricorda? Io sono... No, scusa Massimo. Ora sta zitto perché ho fatto una domanda. No, sono veramente travolto da questo turbinio. No, John Travolta lo mettiamo un'altra sera. No, assolutamente. Poi dopo averti visto strappare la camicia e ballare nudo sopra il tavolo. Anche è capelli, stato, anche, sì, anche, sì. Capelli, anche capelli. C'è gente anche, che è andata in analisi. C'è anche una certa ricrescita, diciamo. Sì. Gente è andata in analisi per questa cosa. Con Tozzi veramente abbiamo avuto le nostre prime esperienze sul sedile della 500. Però su questo, ecco, lascerei cadere un vero. radio. E, no, scusa, no, bravo, no, io non la lascerei perché hai detto una cosa importante sulla 500. E ti voglio ricordare, sì, come erano gli ammortizzatori a balestra, davanti. Che quindi, e che di effetto dietro faceva? Come dicevo prima, come Gramazio, davano delle moccione anche gli ammortizzatori della 500. I più fortunati avevano la 126, ma però quelli eravamo avanti, e nella quale veniva utilizzato anche il bagagliaio per il plaid. Quello più nell'Alfa Sud, lo vedevo. Roba già l'Alfa Sud era una macchina da roba tosta. Infatti, Marchione poco tempo fa mi ha chiamato, vorrebbe riusare il nome. Gli ho detto: puoi andare. La cappotta la privi? C'è il numero 1. Sì, c'è, se no ci battevi la testa. Allora, ha ancora le palpitazioni. Enzo non ha più la salivazione. Ma è vero. Una cosa incredibile, quando sento le prime. Vabbè, niente, basta. Era il disco errore di questa disco sera. Sì. No, Simone ci tiene a dirlo che l'ha fatto solo per me, che lui mai metterebbe. Mai avrebbe pensato invitato di mettere un Bertone. Gli piaceva. È uscito dalla sala. Non è ingrassato. Ha dato il via e è andato via. Però visto che sta mancando poco tempo, lo facciamo adesso? Che cosa? Il clou della serata? Perché no? Sei pronto? Che cosa? Finiamo in un crescendo rossignano. Non so che. Sei famoso per Ferrari, per Robocop, Graziano, ma sei arci famoso e sei entrato nel mito per un'altra cosa. Il 4 assi vibrato. Io ti chiedo una versione, una long version. Sulla cerca consuma. Di fare proprio mezzo la consuma al massimo. Cioè che accendi. Come sai fare te? Con tutta la calma, provi i tergicristalli. Quello che fai una bella salitona, la discesa, te fermi, riparti. Facci godere. Quella del Vergheret. Bravo, questa la salicona. Poi vogliamo ricordare perché te fai questo. Che cosa è successo un giorno? Stavi andando al mare? Questa, anche se tornava al mare, ma già i mezzi di commozione del genere, i camion a me mi sono garbati. E già da ragazzino a vederli qua atrás i camion mi garbavano. E anche il rumore, diciamo che poi alla fine, pian piano, così per puro caso, tra l'altro per puro caso, lo feci al campo sportivo in un'ape con degli amici al campo sportivo, lo feci la prima volta. Vediamo cosa hai fatto. No, sì, ma lasciamolo così, frega, tanto lo sai. Allora, adesso nella sua per i più maliziosi ci poteva essere. No, non fate così, dai, su. Dai. Nello splendore dei quattro assi, Gramazio ci farà la long version che tutto il paese sta aspettando. Sei pronto? E qui pronto, forse pronto. Dal 1976. Eccolo qua. Ah, vai, pronti. Pronti. Attenti, via. Montra un minuto. Guida alla destra, guida alla destra, perché a sinistra ormai sono quelli moderni. Accendi. Carica il compressore. Si incanta la freccia. Gira a destra all'area di servizio. Un mito. Grazie. Pare che sia stato registrato sotto copyright come il motore della Harley Davidson. Bravo, è vero. È difficile. È molto fragile. Ce l'abbiamo un altro brano, Simo. E allora mandiamolo. È meglio. Oh, Kingsman con chi? Lui, lui. lui era fantastico. Il titolo scritto originariamente da Richard Berry nel 1955. Ma io ho passato 5 minuti di emozione pura fra Tozzi e il Viberti. Però su Tozzi potrei dire tante cose, sul Viberti, Marzi. Sì, abbiamo qui anche una, un'anima critica. Ah, diciamo, pensavo un animale. No, ma perché non nei posso momenti entrare giusti anche quelli. Bravo, no, Massimo. Vai, mi piace. Sei troppo il migliore. Sei troppo. Ecco, Massimo, questo Quattrassi Viberti, secondo me, risponde alle esigenze, diciamo, alle aspettative? No, oppure mi dispiace essere la voce fuori dal coro e che proprio sul finale mi cade. Sull'entrata nell'area cade di servizio. Il gramazio in cui ha. Nella sua interpretazione è mancato quel tocco di classe che è il tergicristallo. Me lo aspettavo da ma non la pioveva, è caldo. No, non ha piovuto, è caldo. Me lo aspettavo e ti chiederei al di fuori dell'interpretazione. Beh, lo eri. Penso che gli amici a casa saranno d'accordo con me che era il pezzo clou. Era un po' come un interrotto, diciamo. Ci ha portato lì e senza questo non io Massimo lo vorrei tutte le settimane. Comunque, ma fare un commento critico si potrebbe anche studiare in base alla sua disponibilità. Un anche qualche come dopo Sanremo vorrei fare il dopo Piazza. bravo. Sarebbe fantastico. Sarebbe fantastico. Beh, io direi questo. Chiudi te, Marzi, come solo te sai fare. Ma io perché no? No, allora vabbè, è finita. Abbiamo sforato, ma d'altronde era inevitabile. No, dobbiamo ringraziare nell'ordine. Ma tutto questo, no. Enzo, perché cosa? Perché 50 sono passate. Ma altre 50 anda venire. E abbiamo bisogno e voglia che tutti quelli che ci seguono ci diano anche degli spunti, degli stimoli, perché noi in 50 puntate abbiamo soltanto dato così degli sprazzi di quello che è veramente Fogliano, Piazzalta, la gente di Piazzalta, la storia di Fogliano, la storia, i personaggi fatti e via. Domani è un altro giorno, si vedrà. Ah, bravo. La nebbia agli irticolli piovigginando sale. E salutiamo Paolo che inizialmente ha fatto le riprese, ma poi salutiamo anche Valeria. Oddio, mi sono perso. Elisa. È l'Alzheimer. Quando si parla di donne, qualche tara c'è. C'è. E ringraziamo anche i nostri ospiti. Fallo te, Massimo Biribicchi. Bravo. Bartoli. Prego, ringrazio prego voi e vorrei dirvi che questa puntata mi ha dato più le vostre 50 puntate che 50 sfumature di grigio. Grazie. Ma fantastico. Era quello volevo. Ecco, visto che tu l'hai letto, in una prossima puntata ce lo potresti anche fare il critico. Però fammi una va bene. E ringraziamo poi Bartoli Graziano in arte. grazie. Ciao a tutti. Saluta, Sara. Ciao. Buon ascolto. Avete ascoltato Piazzalta, un programma di e con Enzino e Marzi e alla parte tecnica Simone. One. Alle riprese Valeria e Paolo. Paolo. Era aerea Paolo. Buonanotte. A giovedì prossimo. Buon ascolto dalle F frequenze.